Bordo Campo di Dario Ricci. You're Max Pappas. I'm Marlene. You're the number 13 driver for the Geico NASCAR race car. Yeah. I have three things that I love in this world. They are family reunions, buttermilk, and NASCAR. Wow. I've been to 5 races. Charlotte, Bristol, Talladega, Daytona, and the number one, the brick, Indianapolis. Beh, sentito cosa può accadere se sei un pilota della Formula NASCAR in America. Una fan ti vede prendere un caffè in un bar e ti salta al collo abbracciandoti estasiata. Perché in America la NASCAR è popolare come più la Formula 1 nel resto del mondo e i piloti sono dei veri e propri miti. E allora siamo andati a pescare l'unico italiano che quest'anno è al volante di una vettura ufficiale nel campionato NASCAR. Max Pappas, 36 anni, di Como. Sarà lui allora a guidarci alla scoperta del mondo dei motori d'oltreoceano. Io principalmente sono estremamente orgoglioso per il fatto di essere il primo italiano a correre in NASCAR e dopo le mie esperienze tra Formula 1, IndyCar, Daytona 24 ore, Le Mans 24 ore, sono contento di essere in quella piccolissima elite di piloti che può dire che praticamente, non dico che ha fatto quasi tutto, ma quasi, nel senso una persona mi sento molto poliedrico su tutte le cose che sto facendo, quindi per me questo è già di per sé una conquista importantissima. Sono contento di quello che ho fatto qua negli Stati Uniti, di aver tenuto in alto il colore dell'Italia e specialmente di essere il primo italiano nella storia a correre in NASCAR, che vuol dire, per far capire alle persone a casa in Italia, è come è paragonabile quello che è successo a me di essere chiamato da uno dei top team di Formula 1 e avere un'opportunità di correre in Formula 1. Oppure sarebbe come, faccio sempre questo termine di paragone, come se Paolo Maldini fosse chiamato per giocare con i San Francisco 49ers, che è il football americano. È una cosa che cambia veramente la vita, specialmente essere nello sport numero 2 in America. Dopo il football americano, la NASCAR è lo sport più importante. È un po' come paragonabile al nostro calcio, secondo me. Questo risultato è per te il vertice di una lunga esperienza negli Stati Uniti. Come è nata questa tua avventura? Come sei sbarcato nel mondo dei motori negli States? Io ho corso in Formula 1, ho fatto tutta la gavetta dalla Formula Panda fino ad arrivare in Formula 1 in Europa. Nel 95 sono arrivato a coronare il mio sogno, però mi sono accorto che l'opportunità di poter guidare per un top team non c'era. Quindi ho deciso di cambiare aria, lasciare la Formula 1, arrivare in America, guidare per i prototipi con Ferrari. Sono arrivato a Daytona, la 24 ore, una gara importante, mi ha aperto le porte alla IndyCar. Ho corso in IndyCar per tanti top team negli ultimi anni, sono riuscito a correre per Roger Penske, Ganassi, Bobby Rahal e dopo aver fatto oltre 100 gare in IndyCar e aver vinto in IndyCar, mi sono spostato, ho firmato un contratto con Chevrolet, con General Motors, per andare a correre le gare di durata con Corvette, che Corvette in America è un po' è nel cuore degli americani, un po' come la Ferrari, diciamo. Negli ultimi 4-5 anni sono stato sotto contratto da Hendrick Motorsport, team che gestisce le macchine di Jeff Gordon e Jimmy Johnson, che per prenderlo in parole povere è una squadra di più o meno 600 dipendenti. Dopo essere stato con loro per 4 anni come test driver è nata questa grandissima opportunità per correre in Sprint Cup, dove veramente mi misurerò contro i mostri sacri dell'automobilismo americano. Dicevamo IndyCar e ora NASCAR, non tutti sanno che sono due categorie diverse, due formule diverse. Quali sono le differenze fra queste due categorie, fra queste due formule? IndyCar purtroppo negli ultimi anni è calata tantissimo a livello di popolarità e non è nemmeno paragonabile alla NASCAR. La NASCAR è il secondo sport negli Stati Uniti con audience televisivi di milioni di persone, 350.000 spettatori di media gara con 36 gare l'anno. IndyCar, quando ho corso io in IndyCar, era veramente uno degli sport automobilistici in America più grandi, dove c'erano tutti i grandi campioni, Alan Sir Jr., Bobby Rahal, Michael Andretti, Mario Andretti. Purtroppo negli ultimi 4-5 anni le cose sono un pochettino cambiate, con la separazione che c'è stata tra Champ Car e IndyCar, mi ha dato praticamente lo spazio alla NASCAR di crescere e diventare importantissima. Quindi in questo momento sono proprio due cose non paragonabili. NASCAR è 10 volte più grande, 20 volte più grande di IndyCar in questo momento. A livello di guida sono due cose completamente diverse. NASCAR, 900 cavalli, 33 ovali, 3 stradali, gare tiratissime, 43 macchine in partenza, dal primo all'ultimo meno di 6 decimi di secondo in qualifica, quindi tutto tiratissimo, grande parità ma grande tecnologia contemporaneamente nella costruzione della macchina, non nella macchina in se stessa. La tecnologia nello studiare e massimizzare tutto quello che succede nella vettura, come ho detto prima, il mio team 560 dipendenti, è paragonabile a un team di Formula 1 in tantissime cose, logistica fuori dal mondo, la nostra squadra, 3 aerei privati da 50 posti per trasportare non i VIP, per trasportare le persone che vanno in pista a lavorare, quindi un mondo molto speciale e un mondo difficile da conquistare, perché come ti ho detto è un mondo molto, molto, non dico chiuso, ma un mondo a sé stante delle corse, e queste corse da 4, 3 ore, 5 ore, 400 miglia, 300 miglia, 600 miglia, tiratissime, dove veramente metti al limite tutto, la squadra, il pilota, i nostri meccanici che fanno pit stop sono in palestra ogni giorno, dal mattino, dalle 6 del mattino alle 7 del mattino, e dipende dalla loro capacità atletica vengono valutati e messi in una posizione specifica della vettura, dove se cambiare la ruota anteriore destra, se alzare la macchina. Non è un pit stop dove ci sono 30 meccanici per cambiare le gomme, ce ne sono 6, e queste persone devono essere super pronte, super preparate, perché i nostri pit stop sono di 8-10 secondi, 15 secondi massimo. Competizione ad altissimo livello, ma una competizione ancora dove la macchina è importante, ma l'uomo è più importante. Mondo ipertecnologico, grandi disponibilità logistiche e anche ed economiche, ma anche il settore ora dello sport americano più minacciato dalla crisi. Insomma, sono arrivate le notizie di ridimensionamento di budget, il taglio di molti test prestagionali in vista del 2009. Ecco, come si sta muovendo la NASCAR per far fronte a questa crisi che colpisce questo mondo che è direttamente costola della grande industria automobilistica americana? Hanno praticamente cancellato la possibilità di fare qualsiasi test privato durante l'anno prossimo per limitare lo sviluppo delle vetture alle 36 gare durante l'anno. Per far capire un po' all'Europa anche un pochettino cos'è la NASCAR, i costi delle vetture non sono paragonabili neanche minimamente a quello che è una Formula 1. Io penso che il budget di un team di NASCAR sia intorno ai 10-12 milioni di dollari diviso per 36 gare, quindi paragonato alla Formula 1 è completamente diverso, è un altro mondo, è un mondo dove tutti partecipano anche al guadagno in sé, nel senso i premi gara sono pubblicati, si sa quanto la macchina vince, i premi gara sono dal primo all'ultimo, vuol dire che se ti qualifichi per la gara hai dei soldi che alla fine aiutano e sono divisi non solo tra piloti e team owner, proprietari, ma sono divisi anche tra ingegneri, meccanici, ognuno una percentuale basata sul successo e sull'abilità di raggiungere il proprio obiettivo. Quindi secondo me è un po' proprio l'esempio del mondo americano, nel senso sei forte, vai, hai risultato, sei premiato, però con grande coscienza del fatto che l'economia in questo momento è in crisi come da tutte le parti, ma alla fine in che parte del mondo riesce a raggiungere milioni e milioni di spettatori come la NASCAR e far sì che ci sia un brand loyalty che nella NASCAR è altissimo, è unico. Hanno fatto delle interviste chiedendo che tipo di detergente vai a usare e loro hanno detto sicuramente il detergente numero uno che è quello che sponsorizza la NASCAR, e questo quando tu hai 350.000 spettatori ogni weekend e qualche milione di spettatori in televisione che segue le gare, fa capire perché le aziende ok si ridimensionano, però continuano a investire nella NASCAR perché è un investimento molto produttivo, non è solamente un investimento di per sé legato alla tecnologia, è molto sport, è molto marketing, e secondo me è molto più a livello di marketing uno sport fatto per i tifosi. La differenza che c'è tra l'automobilismo in Europa, dove secondo me l'automobilismo in Europa è uno sport dove il tifoso è quasi tenuto a distanza, l'esempio più bello che io do sempre è che secondo me il NASCAR è la cosa più simile che c'è a MotoGP in questo momento, dove c'è grande competizione, però c'è anche un grande senso di sportività e anche capire che alla fine non è una guerra, siamo a fare uno sport, è uno sport e siamo fortunati per quello che possiamo fare. Il vostro rapporto con i fan, con i tifosi, cioè la possibilità di incontrarsi, ecco, questo clima poi si concretizza in un rapporto di che tipo? Per darti un esempio molto molto concreto, a Homestead, Miami Speedway, l'ultima gara dell'anno, è arrivato un tifoso da me ringraziandomi perché nel 1998 avevo fatto una fotografia con sua moglie, firmato un autografo a sua moglie era lì con lui e ha voluto fare un'altra fotografia con me 10 anni dopo, diciamo. Quindi un grande seguito, una grande lealtà. Ogni weekend abbiamo un'ora che dobbiamo dedicarla ai nostri tifosi, dove tutti i piloti sono fuori dal garage a firmare autografi. È un po' come quando io ero piccolo, quando avevo 12 anni, mi ricordo di prendere la mia moto e andare a Monza, saltare la rete e stare a vedere i piloti di Formula 1 a provare ed essere a 10 metri dalle vetture. La stessa cosa qua in America. Puoi comprare un biglietto che ti dà accesso a vedere i tuoi eroi, le tue vetture da vicino, puoi stringere la mano ai tuoi campioni, e questo per me è alla fine l'essenza dello sport, nel senso dividere con gli altri quello che gli altri alla fine non possono fare per una maniera o un'altra, ma cercare di far vivere ai tuoi tifosi un po' le sensazioni che io vivo ogni giorno quando sono in macchina. C'è qualcosa di esportabile che potrebbe essere condiviso tra le varie realtà motoristiche mondiali, a partire dall'esempio della NASCAR? Secondo me, senza offendere, chi è chiuso siamo noi, non è la NASCAR. La NASCAR sarebbero contentissimi di esportare il loro prodotto. Siamo arrivati in Messico, sono arrivati in Canada. Ogni tanto però la nostra mentalità è un pochettino chiusa, limitata alla Formula 1. Secondo me la NASCAR, quando tu la vedi, ti innamori. Perché? Se tu sei un vero tifoso, sei una persona che ama le corse, non puoi non appassionarti, perché sei a un metro dalle macchine, vedi i tuoi eroi, i tuoi tifosi, riesci a seguire le cose. E secondo me la Formula 1 negli ultimi anni ha preso tantissimo dalle gare dei NASCAR: pace car, yellow flag, le bandiere gialle, l'interrompere la gara. Se tu pensi 10 anni fa, ti avrebbero reso in faccia a pensare di dire che dovevano usare un pace car, se succedeva una macchina, si girava, succedeva qualcosa. Quindi secondo me loro stanno integrando tantissimo la mentalità dello spettacolo americano. La cosa che posso dire in generale è: io sono qua, sono sempre disponibile, e spero tantissimo che le persone italiane, con il fatto che io faccia parte della NASCAR, seguano un pochettino di più questo sport americano, che è bellissimo, e anche il fatto che ci sia una persona come me che porta i colori dell'Italia in America. E allora continueremo a seguire Max Papis nelle sue gesta al volante del campionato NASCAR. A bordo campo. Quella che vi raccontiamo oggi è una storia che lega passato e futuro intorno a un campo di calcio, intorno a una squadra di calcio, dalla maglia Amaranto, scomparsa più di 60 anni fa e che ora prova a rinascere grazie all'impegno di alcuni innamorati del pallone. I dalmati si sono recati fino al monumento ai caduti, che sorge quasi a picco sul mare, di fronte alla loro terra. E presente il gonfalone di Zara, salvato dalle mani jugoslave, hanno deposto una corona d'alloro. Era il 30 ottobre 1944 quando Sergio Vatta, l'allenatore di calcio che per 14 anni ha guidato le giovanili del Torino, formando una delle più forti squadre primavera della storia del nostro football, abbandonava la sua città, Zara, allora italiana, assediata dai partigiani del generale Tito. Mesi di bombardamenti avevano prodotto il loro sinistro effetto. Quando io parlo di bombardamenti a tappeto, significa 100 aerei che bombardano una cittadina come Zara, insomma, 100 bombardieri, perché noi con gli aerei avevamo dimestichezza. Venivano tutte le mattine i ricognitori a mitragliare il porto e altre zone della città, e poi dopo nel pomeriggio arrivavano i bombardieri, oppure prima di sera, insomma. I ricognitori che arrivavano e mitragliavano così e gettavano qualche spezzone così, li chiamavamo, in croato li chiamavamo le mlikarizze, che erano le lattaie, no? Dicevamo, eccoli qua di mattina, erano le lattaie che portavano il latte porta a porta, si chiamano mlikarice in croato, e noi chiamavamo quegli aerei, quei ricognitori, le mlikarice, che erano puntualissimi. Impossibile cancellare dalla memoria quel 30 ottobre 1944 che univa il destino dei Vatta a quello di altri 350.000 italiani costretti a fuggire dall'Istria e dalla Dalmazia. Eravamo immersi nella paura e quel giorno avevano bombardato, ma noi ormai eravamo, avevamo imparato a convivere con la paura. Quindi, terminato il bombardamento, cosa facevamo? Noi ragazzi in particolare. Andavamo verso il mare, che distava poco da casa nostra, distava pochissimo, andavamo verso il mare per guardare quello spettacolo orrendo ma terribilmente affascinante. Ecco, e andavamo a vedere la città che fumava, che bruciava ogni giorno di più, insomma, cose pazzesche. Tornando per una scorciatoia che attraversava i campi, arrivavamo verso i nostri orti, della nostra famiglia, così vidi mia sorella che ci correva incontro, perché io ero con degli amici, ragazzini come me, di due anni di più, insomma. Ecco. Cosa c'è? Dobbiamo partire. Ma dove andiamo? Stai zitto, mi portò in casa, mi dette una lavata al viso così, e così come eravamo siamo partiti. Iniziava così un pellegrinaggio lungo 12 anni, da Zara a Fiume, a Trieste, poi a Udine, a Padova, a Mantova, fino a Torino, attraverso i tanti campi profughi che ospitavano gli esuli dalmati e istriani. E proprio nei campi Sergio e suo fratello Antonio sentono parlare della Fiumana. Ma te la ricordi la Fiumana? E tu l'hai vista giocare? Così si dicevano gli uomini incontrandosi, ricordando i tempi felici cancellati dall'esodo. E quella squadra di calcio, l'Unione Sportiva Fiumana, nata nel 1926 e che fino al 1943 aveva riunito il tifo e la passione degli italiani d'Istria e Dalmazia. La Fiumana era una piccola grande società, perché è arrivata fino in Serie A, dopo l'unificazione dei vari gironi, fecero il campionato a girone unico, la Serie A, la cosiddetta Serie A, e la Fiumana andò in Serie A. Ma poi i migliori suoi giocatori vennero a Torino, a Roma, perché tra questi giocatori c'erano i fratelli Varlien, che sono due leggende del calcio juventino, hanno giocato a oltre 400 partite, tutti e due, vincendo 5 scudetti consecutivi, quindi 10 scudetti tra tutti e due. C'era nella Fiumana Mario Mialic, che è stato uno dei giocatori di Vittorio Pozzo. Poi, non so, altri giocatori famosissimi come Loic nel Grande Torino, dove vinse 5 scudetti, ma altri giocarono in Italia come Volk, che diventò capocannoniere del campionato italiano nella Roma, e tantissimi altri ancora. E poi calciatori istriani, dalmati, insomma. E quindi nei campi profughi noi sentimmo parlare sempre di questa Fiumana come di una leggenda del calcio, anche se la società finì il suo ultimo campionato nel 1943 in Serie C. Maglia Amaranto e uno stadio da favola, 11 ragazzi che rincorrono un pallone, come ricorda Antonio Vatta, fratello di Sergio e oggi presidente della Consulta Piemontese degli Esuli di Venezia Giulia e Dalmazia. La maglia è una maglia Amaranto con un bordo giallo e calzoncini blu, calzettoni blu con delle linee gialle o rosse, seconda, poi variava, ma sempre Amaranto, era la maglia Amaranto. All'inizio c'è stato un periodo che poi l'avevano fatta che era un po' sull'arancione, così aveva preso dei colori, così, ma poi la maglia è diventata Amaranto ed è sempre stata Amaranto. La Fiumana giocava al campo di Cantrida, a Borgo Marina, a Fiume, un campo bellissimo, forse unico nel mondo, che è scavato proprio, diciamo, sul mare, e da una parte c'è tutto costone di roccia, quindi è una cosa bellissima, ecco, vedere un stadio così. Del resto la storia della Fiumana si inseriva nella cultura di una città che ha regalato all'Italia campioni in tutte le discipline. C'era uno spirito in questa città che poi ha dato, oltre che calciatori, ha dato tanti altri sportivi, Santo Pamig, Straulino, e nel tennis il Cuccelli, Sirola, grande, con Pietrangeli, che era una grande coppia del doppio, Calebotta nel pallacanestro, nel Virtus Bologna nazionale, e Bisoni, finalista mondiale di 400 ostacoli, e insomma tanti atleti. Allora c'è uno spirito che vorremmo ricreare, ecco, se è possibile questa cosa. L'idea, il sogno, la splendida pazzia dei fratelli Vatta infatti è proprio quella. Perché a più di 60 anni dalla sua ultima partita non far tornare in vita la Fiumana con nuovi giocatori, nuove speranze di gol, vittorie, partite, ma con quella stessa indimenticabile maglia amaranto. L'obiettivo è tornare a giocare in quella stessa Serie C che ospitò la Fiumana in quel lontano 1942-43. I primi passi sono già stati fatti, spiega Sergio Vatta. Noi abbiamo fatto un'istanza, l'abbiamo inviata in federazione ed in seguito l'abbiamo inviata a tutti i rappresentanti delle leghe, innanzitutto l'abbiamo dopo un colloquio l'abbiamo inviata al presidente Petrucci, che è il capo dello sport italiano, poi al presidente Abete, quindi a Macalli, presidente della Lega Pro, poi a tutti gli altri, insomma. Oggi Fiume è in terra croata, ma Torino e il campo di Parco Ruffini sarebbero già pronti ad ospitare la rinata fiumana. Antonio Vatta. Torino ha una grande storia di giocatori fiumani. Poi in Torino ci sono stati tanti esuli, oggi ce ne sono ancora tanti, e quindi ecco questa idea nostra di farla a Torino, e poi anche perché logisticamente abitiamo a Torino, quindi farla in un'altra città ci sembra un po' così sconveniente che dobbiamo andare in un'altra città. Intanto Sergio Vatta ha già ricevuto un fax che è un monito, un impegno del calcio italiano per far rinascere questo sogno. È la risposta del presidente della Federcalcio Giancarlo Abete. Caro Vatta, faccio seguito ai colloqui intercorsi con la mia segreteria per confermarle che il Consiglio federale del 29 gennaio, su mia proposta, ha deliberato di costituire un gruppo di lavoro con la presenza di un professionista, un rappresentante della Lega Pro e di un rappresentante della Lega Nazionale Dilettanti per approfondire la richiesta da lei formulata relativamente alla Fiumana, fermo restando il contenuto della comunicazione della Federazione del 14 novembre ultimo scorso, in riscontro alla sua del 16 settembre ultimo scorso, si è comunque ritenuto di individuare un gruppo di lavoro che possa sul piano giuridico e su quello sportivo dare riscontro alle istanze formulate. Il gruppo di lavoro darà poi la relativa informazione al Consiglio federale. Insomma, in fondo basterebbe qualche calcio a un pallone per rivedere in campo quelle maglie amaranto e lenire la ferita del destino. Antonio Vatta. Per la nostra gente, essere riconosciuti, diciamo, dopo questo oblio di 60 anni e non aver avuto anche riconoscimenti sugli indennizzi, diciamo che noi siamo ancora in attesa di essere indennizzati per i beni che abbiamo lasciato là, la casa, tutto quello che avevamo, lo Stato italiano non ci ha ancora indennizzato, quindi sono passati 60 anni. Allora, come giorno del ricordo, che è stato un riconoscimento morale, noi pensiamo che anche questo di ricostruire, di rifondare questa squadra è un segno, diciamo così, morale di riscatto per la nostra gente. Per a bordo campo di oggi è tutto. Grazie a Fabio Cantadori e Valeria Bernardi in regia. Potete scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.